c'è qualcuno? Hola. Thank you. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Cattami a Giannemi! Uè, Dore, non sei urso! Ma è certo che mi ne gioco Ducchelli! Non ti sentivo più, boh, chiamavo ogni sera, boh! Ma c'ero sempre prendi cosa, non c'ero! Ecco cos'è! Quindi, fuggimi, che sono a casa! Però gli altri giorni non mi dica! E cosa stai andando al mare? Oh, ero sempre impegnato, o per la macchina, ho paghi d'altro, ero sempre impegnato. Non mi puoi vedere della macchina, che mi sei facciato il coso, il piantone dello stesso, non va manco 40.000 km la macchina lì. Cosa ne è uscito da il doppio snodo che sei facciato? Ah, c'è indurito il volante, c'è indurito, è diventato duro, non girava più. E cosa da quel piantone, quello che si allunga e si accorcia, quello lì sicuramente ti si è bloccato. Ah, ho fatto una manovra, in una manovra mi è successo questo, cos'è che tu bussa? Originale col ciambè, se lo metti che non è originale ti costa meno di 100 euro. No, io lo metto rigenerato, costa 700 euro e 1.400 nuovo. Allora non è quello che non è il piantone, allora è quello dello vicino allo snodo. È quello che ci vuole anche praticamente la scatola dell'idrovita. No, è quello lì, che ci costa un bel cuccio, il generato ti costa fare a poco, 700 euro, poco, c'è un bel rinasso? Sono bel rinassi, è un salasso proprio, guarda, mai successo una spesa così con le macchine, e dice che la Fiat ce l'ha di bici a rompersi questa roba, si rompe nelle 500, nelle 600, nelle Panda, il mio meccanico ha detto che ne ha fatto due in una settimana, una 500 e una Panda. Io manco male il piantone dello stesso che ho io, quello corto da me ci vuole, che è un po' sballato, e che non c'ha più voce, si intende. Lui ha detto che basta che prendi un fosso male e si rubi. Ma quello che ho io, tanto nello stesso è quello corto, che entra, esce, e si muove. Secondo me se sta andando dritto, devi dirlo, anda sempre in movimento lo stesso. Che si muove da solo così. Costa poco mio, l'originale costa 140 euro, che cosa ti costa 80 euro? E ora sei fortunato, quello della Fiat cosa non è? Purtroppo non sono tutti precisi, ecco cos'è, ma già non metto che non fa nulla. Cosa la gente ne che mi chiama a baciare un bambino se mi asse? Ma da tuo cognato, da tuo genero? Mio genero? Fa un bel travaglio e non riesce a ciappare una mezz'oretta a me. Ti puoi infilare, se non è una cosa molto lunga. Ah, c'è mia asse, già ti puoi fidare, non è... È la crociera che deve... tutto il semiasso mi cambia, però la crociera che è partita. A me il meccanico mette non camminare molto col volante così duro, perché se no fai un bel di danno. E da voi non esci più, eh. Ah, non è già diverso, non è come per l'altro. Se l'ha controllato, costa... di cosa costa... 70-80 euro costa. stato originale di questo ambedinato. Ma originale dice che non è stato più mettendo nessuno, li stanno proprio tutti rigenerati, tanto quando li rigenerano li cambiano tutti i componenti. Infatti, fate così, ma come che sia originale? No, è originale, però è rigenerato, capito? Sì, già lo so, sì. Ma il mio non ce l'ha così. Non ce l'ha così, no. È tutto diverso. E sei fortunato, perché io ho avuto... Questa è la 13ª macchina che ho, le altre 12 non mi hanno mai fatto un difetto del genere. Anche a me me l'hanno mai fatto, e ne ho avuto macchine, ma non ha mai fatto questa cosa così. Oggi tutte le macchine mi ha detto che non sono precise. E infatti me l'ha detto il meccanico, questo è un difetto della Fiat, lo faccio tutte le Fiat. Da un momento all'altro te lo può fare. Allora meglio non avere Fiat. Cosa? Meglio non avere una Fiat. Bisogna mettere il mutuo per prendere i pezzi. Prima dicevano che i pezzi Fiat costavano poco, che erano quelli delle macchine estere che costavano molto, invece mi pare che pure la Fiat va. Questa non ve... Questo è il movimento... Vai a comprare i pezzi della Nissan. Ma da coso? Aspetta, come si chiamano? Che è dalla Toyota. Che ce l'hanno loro adesso i pezzi Nissan. Ma tu è andato a pigliare i singoli delle carte frangenti. 80 euro l'uno. Ma no, guardi, lasci perdere. La giudicate da internet, 10 euro l'uno. Anche se non sono originali, non me la giocate pulire. Intanto originali o non fanno sempre lo stesso lavoro, eh. Infatti, fanno lo stesso lavoro. Quindi, di più giù, una ventina di euro. Ah. E di frangenti rotti c'avevi? Nel paraurti di dietro vanno, il destro e il sinistro. Sì, ho capito, sono incastonato. Che avevo portato al carrozziere a verniciarmi la cappotta, lo sportellone e tutto il paraurti, che il paraurti c'ha due pezzi, sotto nero e sopra il colore suo della macchina. È un colore, dai. Vabbè, e te l'hai fatta, cos'era uscito il trasparente? Se stava cominciando sulla cappotta, aveva già iniziato a sparire il trasparente. Poi nello sportellone aveva fatto un coso, una bozza, ma va fatta. E poi il paraurti ha sparito tutto il colore. Perché con queste vernici d'acqua che non si vede a nulla, me l'ha detto a me, sono andato al carrozziere una volta e ho detto io, guarda, queste vernici d'acqua non le ho mai usate, è la prima volta che le sto usando, e tanto tempo fa, e quando erano appena uscite. Mi ha detto, non ti garantisco un lavoro finito, perché con queste vernici d'acqua non le conosco e non so quanto durino. Ah no, io ci ho fatto mettere la vernice sua originale, ci ho fatto mettere, me l'ha fatta, e va a fare borra nuva. È tutta d'acqua sono le sue vernici, non le puoi usare quelle acriliche. Ah boh, non so quale ho usato. Comunque c'è, cioè, la vernice originale io ho fatto mettere. E con il tintometro le fanno, di solito fanno il tintometro, le fanno loro le vernici. E se da poi tu dorra fa si roba, pensa un po' come a pigliarla. E allora non è a tintometro, invece quello che c'è il carrozziere a tintometro la fa lui, la fa precise dita. Già è uscito un po' garido, sai che cosa mi ennero. Dice di riportarmela, ce la riguardiamo. Ma gli tu manda della cagata, non gliela porto più da lui. Perché? A chi le fa? Perché nello sportellone si vedono le lacrime, si vedono. Vabbè, gli arrosori ci vedono le lacrime. Poi dopo il coso, dove c'è la guarnizione, lì non l'ha coperta bene, come la doveva coprire. Ecco cos'è. Ma c'è andato per un attesso così. Ma lì te lo fa, con la carta abrasiva, la abbassa e poi ti dà un colpo di vernice e non si vede più nulla. Quello lì è accolato, sicuramente è accolato perché è andato troppo vicino. Ma si vede al sole, se mi metti come guardi così non si vede. Devi guardarla di traverso di là di Vabbaida. Vabbè, ma non ci deve essere questo problema. Deve essere liscia la macchina, se io so verniciare non devono esserci colature. Infatti, se ne ha bizzato Edo, io mi ha capizzato me ne gioco. Ce ne ha accorto mio genero, l'ha controllata. Ma mi ha detto, te l'ha fatta, era meglio gliel'ha fatta. Piano, l'ha venuto di Dio. La penso che mi tratta a male, se mi deve tratta a male. Ma l'avrei fatta a Porto Dottore? No, qua... il carrozziere nella via di Franco Ennas. Ho capito. È il padre di una tipa che mi c'era sbattuta la macchina quando ero parcheggiato e voleva anche la parte grande. Me l'ha lampato specchietto, mi ha fatto la fiancata. Io però che con due ruote sul marciapiede, lei ha parcheggiato, vabbè, ma mi metteranno la multa, ma tu mi paghi di danni. Poi mi ha chiamato il padre, me l'ha fatta lui, me l'ha aggiustata il padre. Ah, ho fatto male che non l'ho portata a quelli di sopra, che sono due, fanno, lavorano bene, lavorano. Non li occupi in tutto. Cosa c'è la porta a teggio? Ma se ti stavi parlando non sentivo. Cosa ti stavo dicendo? Io la porto da cocco, mi trovo molto bene. Me l'ha sempre fatta benissimo la macchina. Ma io non ci sono andato più perché non avevo già papà un po' di cose capa e se la parola me la tenia un mese me la tenia, allora non l'ho per portata. Mi sei cantando a capo del succo. Non stavi uscendo poco fa, ce l'avevi tu premuta la portata. Cosa qua che non sta funzionando bene? Ripetiti, spostalo. Cosa c'è? Te le bevi più 5. Ecco, adesso sì. A voi che si incanta. Perché se tu lo metti, se tu come primi lo porti sulla sinistra, si blocca, capito? Perché c'è la portante fissa. E infatti è così. Lo è tenuto bene sulla destra. Chi si macchi di oiui? Tanto di là. Se non mi aveva fatto una vacanza, mi dice di là. 1.000 euro ci ho speso sopra. Non so. È così quando fa le cose. E a me la stativa, stavo parcheggiando e sento bum bum bum, mi azzocco. E questo qui con la moto ne ha buttato un'altra moto che era parcheggiata e c'è tutta la macchina mia. E praticamente ho guardato il paraurti, non c'aveva nulla, ho detto vabbè, stai attento la prossima volta. Abbiamo raccolto con la moto che c'era, poi è uscito anche il padrone, ce l'ha controllata e ha detto che ne è partita la moto, che non è riuscita a controllarla e si è sbattuta. Poi sono arrivato a casa, cazzo, guardo la fiancata della macchina e non è entrato l'uncoso di Rubreno, ma ha lasciato una strisciata incavata la macchina. Qualcosa del con la maglia del freno. No, sportello, così è. No, nella fiancata di dietro, della ruota di dietro. A me invece con gli sportelli, tutti gli sportelli mi sono graffiati. stanno abri. Culo. E vabbè, quello no, perché io la metto in cortile la macchina e c'è il cancello, chiudo e via, e la macchina, se te la tocca lo ce l'ho, quindi che ci sono a fianco, quindi devi stare attento. Ma non vai a... a coso, a... ma è posto di... a usciare e coso, e chi vi me la toccano sempre? Perché sono stretti, qui parcheggia Giovanni, però vedremo che farà. Ah, togliamo però che c'è signora anziana, che andava a besso, boom, ha malassato il grafio. Senti signora, che adesso mi ci vogliono 200 euro per farmi uno sportello, guarda il mio grafio. Ma io ho detto, cazzo, ma che mi apre la macchina, abbreviano, non tocca le macchine dell'altri. Ogni volta mi devo ubriare con l'altro, mi devo ubriare. E la sera che faccio spesso. Io quando apro lo sportello metto la mano dietro per non toccare l'altra macchina, capito? Se c'è un po' di educazione non le fai queste cose. Io ho i gommini, c'ho negli sportelli e quindi no, non toccano a graffiare. Ma mi ha lasciato un segno. E tutti quanti mi, che mi raddoccano. Io la pretesto mi fa l'assicurazione. Io ne sono andati, cosa? Ci ho toccato, mi rimane graffiata, mi rimane. Il sadomacco, io ne pretesto per fare l'assicurazione, perché lo sportello lo pago per farlo. Ma non glielo ho detto, tu ma un graffio così non fa di nulla. Ma così vedi, cazzo ma così vedi. Ma hai detto, ne gava, lo c'ha ruggeco, ne gava. C'è gente che quando c'ha torto si mette a burro a Bassimano, non fatti chi si mette a Bassimano. Infatti c'era un'altra ragazza, stava la stessa cosa. E tagli tu, un po' di rispetto almeno delle macchine degli altri, non ci avete rispetto per niente, a me non scala il culo. Ma è brutta la caccia, mi comincia da dire, tagli tu un po' di barolacci. Sì, ti rispondono male, capito? Ti rispondono male, non hanno nemmeno rispetto per una persona anziana. E se ne è andata, ma se ne è andata con tutta quella macchina tutta graffiata. Che viraggio graffiata, viraggio. Che coraggiati. Pienino la peste. E cosa vuoi fare? Parte che ti rispondono le mani, non c'hanno rispetto per gli altri. Quindi cosa gli vuoi fare? Vai a farti la bava. Dispettoso come la scia. E vabbè. Certa gente se lo merita perché non hanno rispetto. E infatti c'è una delle ragazze che stavano guardando e mi ha fatto, e cos'è? Mi ha graffiato lo sportello e mi ha risposto anche male. E mi ha sentito, è la pulita che è smoccata, l'hanno detto ieri, proprio smoccata. E così l'hanno inteso da lontano. Mi sono comparato che lo vedi mi ha abbiato. Sono una bambina e ha sviluppato una macchina. E io vado sopra di vasci, di vero. Sopra di vasci. Guai a ciappalli. Ui, ui, ui. Però carità. Tante volte ti devi compromettere per queste persone qua. Devi stare a bisticciare, eccetera. Compromettere, non compromettere. Ti posso dire che la prossima volta non si avvicina a nessun'altra macchina, chissà. Ce l'avrà immaginato che eri tu. No, per su baita che era il posumare. Non hanno più educazione. Prima io mi ricordo che anche i vicini di casa, se vedevano che stavi facendo qualcosa che non dovevi fare, anche da bambini, ti dicevano, no, non si fa, guarda che lo dica tua madre. E io vado subito da Capovascio, me ne andavo. Non ci andavamo a rispondere, capito? C'era questa educazione qua prima. Ma a rispondere a va. Fatta, siamo tenendo tutte le maglie di che lo so. lo so, perché io l'altro giorno sono tornato indietro. Questo qua a casa non mi ha dato il tempo di uscire stavo uscendo dal cortile, ero già a metà strada, questo ha fatto la curva sparata, ma poco non mi circo, ho detto andiamo piano. E mi sta mandando anche sul paese. E c'è Gudurrad da Giuccio che si è fermato, e c'è Gudurrad da Giuccio, ho detto a chi è che l'ha detto quello lì? E ma stiamo andando più, a chi l'ha detto? La prossima volta non lo dire più, capito? Perché se a ciaffi di una balumura. Non vedevo che già è vero così. Sai che ho saputo che mi ha pigliato Robo Ciaffuglio. Davvero? Sì. È una ragazza, chi sa che mi sembra Umberto. Ah, l'hanno trovato il portafoglio? No, perché mi hanno tornato un tesserino, mi hanno tornato. Mi hanno tornato un tesserino per la fotografia, un collega di lavoro. Che gli avevamo messo dentro la cassetta delle poste sua. E lui dice, dimmi la verità. E me l'ha tornato, avanti ieri me l'ha tornato. E già li sono servizi, dirà che ti ha furato. Ah, fa climare i suoi servizi. Faccio l'anima gioia, va. Per carità. Oia, cosa fate la droga? Non comprendere più nulla che adesso drogati. Infatti è così. Dice se punta è andato overdose. E allora? No, succede quando c'è la roba troppo pura, capito? Di solito viene tagliata un po'. Quando è pura pura, loro sono abituati a farsi con quella tagliata, quindi quando è pura arrivi dal gamba. Infatti è così. Ci ha fatto tutto, va. Mi sono fatto tutto quanto. Ma i documenti no, i documenti non li trovate. Non va già avuto, ci ho visto il tesserino. E boh, non ha già avuto nulla. Ma pure la patente, qui. Patente, carta d'età, le cose, i tesserini, quelli di Auchan, Conade, quelli lì. E così c'erano la codice, ma che si chiama l'altro, il codice sanitario, tutto nuovo hanno fatto di questo. Che se ne tengo usato, ma una guasa che se ne tengo usato, ha fatto tutti questi documenti, e la patente subito te la rodano. La patente quando la rinnovi ci passa 4 giorni, 5 giorni al massimo, e mi è arrivata la stessa cosa per la carta d'identità, per la invece per il tesserino del sanitario, quella ci ha messo più di una settimana arrivare. Ma la patente non devi dare quella vecchia quando la rinnovi? No, non ce l'avevo io, me l'hanno fatta i carabinieri, me l'hanno fatta, l'hanno mandato il foglio, l'hanno mandato a Roma. A Roma, poi, non so, dove sei, Lacci, e me l'hanno rifatta nuova. Sono collegati con Roma, sì. Meno male, che prima quando prendevi la patente era un casino, si acciappava, infatti il mio suocero che era ispettore di polizia mi ha detto ti conviene sempre fare la fotocopia di tutti i documenti, perché se perdi la patente per dire c'hai il numero, tutto quanto e risalgono subito, te la fanno subito, capito? Se invece non sanno niente, non ci sono gli estremi, non sanno nulla, ci mettono un bel tempo. Sì, infatti io avevo la fotocopia della carta d'identità, fotocopia della patente, poi avevo anche la fotocopia del tesserino sanitario, per quello mi ha risalito tutto, ma ho fatto in fretta. Allora, per il tesserino sanitario sono salito su alla cassa mutua a farlo. Vabbè, interessante che ti è già arrivato tutto, che ti sei rimesso in sesto. Allora, se attenta non lasciarlo più, se no è come Ma tu lo sai che adesso se ti lasci i finestri aperti alla macchina c'è facile di multa, perché voi i ladri a rubare. Infatti è così, c'è scritto adesso nelle... Se tu leggi in internet c'è scritto. Adesso li stanno mettendo nei cosi dei fogli della patente, li stanno mettendo. A non lasciare i finestrini aperti per niente. Tante volte non lo fai per cosa, magari te lo dimentichi. A me è successo però in cortile, quindi mi suona sempre quella che c'è fianco a me, già a me che ti sei dimenticato il finestrino aperto, allora guarda, lo chiudo, però ti può succedere, non l'ho dimenticato, perché quando c'è questo caldo per arrangiare li apri tutti e due, magari uno te lo dimentica. A me non lo so, va bene, tu a dare tu mia nipote non me lo chiudeva. Allora darà di ha detto, beh, ora non ne farebbe più finissimo. Con il tatto gliel'ho bloccato, e non ne scendeva più. Ma me lo lasciava sempre a becco. Pura vita. E tu dove, quando scendeva c'era il finestrino chiuso l'hai. Così almeno impara e poi lo fa. No, adesso gli ho messo il tasto e l'ho bloccato e non l'apri più. Cazzo si va. A mani estreme seguo i rimedi, dici no? Già lo credo, che hanno due lasci. Era prima, era seconda, era terza, era quarta, era quinta. Che lascia sempre a becco ogni volta che posa. Ma è piccola, quanti anni c'ha? 10 anni c'ha quasi. E allora la comprendi. Bisogna dire, guarda che devi chiudere il finestrino prima di scendere. Scontrolla sempre che sei chiuso. Sì, ve lo dico, dentro la bomba se ne riuscirà la farezza. E così. Le missioni sono così, quanto cosa ne vuoi fare? Non le vorrei manco così, ma che si cose. Devono imparare, l'educazione si insegna così, facendoli capire che è sbagliato quello che stanno facendo, così almeno loro dopo lo fanno bene. Infatti è così. Vabbè già, ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo. Grazie della chiacchierata. Ci risentiamo. No, con un gas, ma manco con un poco di fresco. Sì, oggi già si sta bene, dai. Va bene, Ettore, dai, buona carica quando la fai. Grazie per il QSO. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao già.